Valsusa blitz per ampliamento cantiere, scarica elettrica grave, leader no TAV. Tesoro asta bot per 12,25 miliardi, si abbassano i tassi. Il ministro Fornero, senza accordo con le parti sociali, il governo ha il dovere di andare avanti. Oscar trionfa The Artist, statuetta per Ferretti lo schiavo. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Al via Chiomonte, in provincia di Torino, l'ampliamento del cantiere per il tunnel geognostico della TAV Torino-Lione è in condizioni gravissime per traumi da caduta e ustioni da folgorazione. Luca Abba, uno dei leader no TAV, raggiunto da una scarica elettrica e poi caduto da un traliccio dell'alta tensione. Poco prima Abba si era collegato con l'emittente torinese Radio Blackout. Guarda, io sono appena arrivato ora. C'è un dispiegamento di poliziotti in assistenti sommossa attorno alla baita, una ventina di persone fermate e io mi sono arrampicato sul traliccio. Adesso stanno salendo per venirmi a prendere, io sono sul traliccio proprio di fronte alla baita. Sono riuscito a sfuggire i controlli e mi sto arrampicando. Sì, Luca... Sto organizzando per salire con le corde perché... e quindi boh, cerchiamo di fargliela trovare lungo in questa maniera qua. Io sì. Sono qua, sono pronto e disponibile ad appendermi ai fili della corrente, se non la smettete, ok? Ecco, adesso vedremo come si evolve. Sì, Luca, ma scusa. È tranquilla, non ci sono tensioni, non vedo violenze, però c'è ovviamente un dispiegamento eccezionale. Io sono qua aggrappato, sono riuscito a svicolare da decine di poliziotti che mi guardavano attoniti, ce l'ho fatta a fargliela sotto il naso un'altra volta. Sono qua a 10 metri d'altezza, all'altezza dei cavi elettrici. Scusami, vedo sotto i rocciatori che si stanno preparando con le corde. Vediamo un po' quanto riesco a resistere. In qualche modo cercherò di fargli la trovare lunga. Io spero. Adesso l'invito, io direi, è quello di venire qui a far pressione. Quella che avete sentito era la voce di Luca Abba dalla Val di Susa. E noi abbiamo in diretta proprio dalla Val di Susa Maria Chiara Voci. Buongiorno Maria Chiara, qual è la situazione? Sì, buongiorno. Ci dicono che è in coma, intubato, con un trauma toracico e fratture multiple Luca Abba, il manifestante appunto che è caduto questa mattina dal traliccio nei pressi del cantiere della Maddalena. In realtà si è trattato di un tragico incidente, frutto dell'esasperazione dei toni della protesta, mentre le forze dell'ordine dalle 8 stavano dando avvio alle operazioni di ampliamento del cantiere. Ma intanto la tensione è salita altissima in valle per l'incidente. Questa mattina è stata bloccata da alcune centinaia di manifestanti autostrada A32 Torino-Bardonecchia nelle due direzioni e così è bloccata anche la statale 25 dove mi trovo io in questo momento nei pressi dello svincolo di Chianocco. Qui si è vissuto da poco qualche attimo di tensione per un automobilista che tentava di forzare il blocco e si stanno formando anche le prime code. Intanto in valle è stato indetto uno sciopero generale, questo fa pensare che nelle prossime ore le reazioni all'incidente si propagheranno a macchia d'olio, così come si stanno propagando azioni e presidi anche in altre città d'Italia. A Torino stesso è previsto un presidio tra poco in Piazza Castello. Questo è tutto per il momento, ci sentiamo più tardi per aggiornamenti. Grazie allora Maria Chiara Voci che abbiamo sentito dalla Val di Susa, ma non si placano intanto le minacce contro Giancarlo Castelli, procuratore di Torino, e allora sentiamolo intervistato da Alessandro Milan. Il problema nel momento in cui riguarda me se fosse valutato come circoscritto a me soltanto. È un attacco alla giurisdizione, è un attacco alla democrazia, è una ricerca di impunità, di privilegi. C'è qualcuno che non ci sta ad essere uguale agli altri di fronte alla legge e non vuole essere sottoposto al controllo di legalità. Il problema non è Caselli, il problema è la violenza e il movimento che deve prendere le distanze dai violenti perché è stato detto autorevolmente, mi sembra di poterlo condividere, altrimenti fa del male a se stesso. Se ha ragione, in questo modo si mette dalla parte del toro. E questo era Giancarlo Caselli, procuratore di Torino. Ma ci sono già le prime reazioni politiche ai fatti della Val di Susa. In diretta Elisabetta Fiorito, buongiorno Elisabetta. Sì, le prime reazioni all'incidente della Val di Susa sono ovviamente quelle più a sinistra, l'area radicale tutta con i manifestanti della Val di Susa, molti auguri a Luca Abba, il ragazzo leader del movimento No TAV precipitato dal traliccio stamattina, vengono espressi dal segretario dei comunisti italiani Oliviero Di Liberto, siamo contrari alla TAV fatta in Val di Susa, non in generale, mentre il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero chiede al governo di abbandonare la TAV Torino-Lione, un'opera inutile e dannosa e che sospenda immediatamente l'esproprio dei terreni. Sulle stesse posizioni in Lega Ambiente, il grave incidente di questa mattina deve servire al governo a fermare i cantieri, e anche da parte della FIOM c'è una reazione. Giorgio Cremaschi parla di gravissimo incidente frutto dell'occupazione militare della valle. Più mite ovviamente il parere di Felice Belisario dell'Italia dei Valori, che dice: quando l'assenza di dialogo lascia spazio alla violenza è sempre una sconfitta per tutti. Solidarietà da Ba, occorre fermarsi un attimo e riflettere. A proposito del procuratore Casel, c'era stato già una solidarietà da parte di Maurizio Gasparri del PDL. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Il Tesoro ha collocato botta a 6 mesi e flessibili a 295 giorni per un totale di 12,25 miliardi di euro, il massimo importo previsto, con rendimenti in calo. Per la tranche a 6 mesi il rendimento è sceso all'1,2% dall'1,9% dell'asta del 27 gennaio. Sulla scadenza a 295 giorni il tasso è stato dell'1,29%. Gli investitori stranieri tornano a comprare titoli di Stato italiani. Il vice ministro all'economia Grilli e il governatore di Banca Italia Visco indicano il ritorno degli acquirenti esteri come un segnale di crescita della fiducia verso il nostro paese da parte dei mercati, certificato anche dai partner G20 e da organismi come FMI, BCE e Unione Europea. Intanto il numero uno della BCE, Mario Draghi, sottolinea che l'Europa dovrebbe seguire il modello della Germania sul fronte delle riforme strutturali messe in atto da Berlino negli ultimi anni. Alessandro Merli. Draghi ha detto sostanzialmente una cosa: l'Europa, che resta un po' l'area più critica dell'economia mondiale, andrà probabilmente incontro in alcuni paesi a una recessione, anche se non grave, e restano dei rischi sui mercati finanziari legati alla crisi del debito sovrano. La BCE farà mercoledì una nuova operazione di fornitura di liquidità alle banche, perché il credito non sta circolando e quindi c'è bisogno di dare un po' di fiato all'economia. Draghi ha sottolineato anche i progressi che sono stati fatti da molti paesi sul fronte sia del consolidamento dei bilanci pubblici, ma anche delle riforme strutturali, in particolare delle riforme del mercato del lavoro. Naturalmente è un argomento molto caldo anche in Italia. Draghi ha voluto osservare che è una strada sbagliata, lui non ha citato esplicitamente l'Italia, quella di voler proteggere a tutti i costi i posti di lavoro invece di tutelare i lavoratori, magari ricollocandoli, e ha indicato l'esempio della Germania, dove le riforme del mercato del lavoro molto incisive sono state fatte, e infatti in questo momento la Germania esce dalla crisi con un tasso di disoccupazione molto più basso che altri paesi europei. Vediamo ora come stanno reagendo, se stanno reagendo i mercati, con Deborah Rosciani, con noi in collegamento per l'aggiornamento appunto sulle borse. Buongiorno Deborah. Sì, buongiorno anche a voi. Le borse reagiscono rispetto ai lavori di Città del Messico negativamente, c'è delusioni per come stanno andando le cose. Londra sta perdendo lo 0,9%, perdono di più le altre piazze: Parigi -1,18%, Francoforte -1,20%, Milano, la peggior piazza d'Europa, c'è dell'1,60%, sotto il peso delle vendite che colpiscono i titoli bancari in maniera molto forte. Monte dei Paschi e Ubibanca sono in calo di 6 punti, Banco Popolare -4, -3,5 punti per Unicredit, -3 per Intesa San Paolo. Appunto, la ricerca di maggiore flessibilità da parte della Germania, che difficilmente appunto invece riuscirà a concederla per l'ampliamento del fondo salva stati, sta penalizzando appunto, come vi dicevo, le borse. Più tranquillo il versante obbligazionario, perché dopo l'asta bot italiana con la quale il Tesoro ha collocato i bot a 6 mesi per oltre 8 miliardi con un netto calo dei rendimenti, lo spread è più tranquillo rispetto agli ultimi giorni, siamo sui 358-359 punti base. Un'ultima indicazione: le borse stanno anche attendendo la nuova operazione straordinaria di rifinanziamento a 3 anni da parte della Banca Centrale Europea. Le banche europee potrebbero chiedere stavolta in asta una somma inferiore rispetto a quella elargita nella precedente operazione, che ammontava appunto a 470 miliardi di euro. E per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ora parliamo delle liberalizzazioni, ancora al centro del dibattito politico. In diretta Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno, sono ancora molti nodi da sciogliere sulle liberalizzazioni. Il lavoro della Commissione Industria del Senato prosegue a ritmo serrato, si è lavorato anche nel fine settimana, ma slitta alle 15 la seduta odierna perché c'è da attendere il parere della Commissione Bilancio su alcune misure che potrebbero comportare oneri. La Commissione dovrebbe licenziare il testo innotato al massimo nella giornata di domani, dopodiché il testo mercoledì approderà nell'aula di Palazzo Madama ed è probabile che ci sarà un maxi emendamento del Governo su cui verrà posta la fiducia, soprattutto se in queste prossime ore dovessero verificarsi altri rallentamenti. Tre punti più spinosi: la nuova ICI per gli stabili non adibiti a culto di proprietà della Chiesa Cattolica. Su questo è in arrivo un emendamento firmato da alcuni senatori del PD che escluderebbe dalla nuova IMU le scuole parificate. Poi le norme sulle professioni: è intanto saltato l'obbligo del preventivo scritto per i professionisti, mentre si prevede il supporto gratis dei notai per le società a responsabilità limitata formate da giovani. Sul problema farmacie si punta ad averne una ogni 3.500 abitanti, irrisolto il nodo dei parafarmacisti, possibile modifiche in arrivo invece per i taxi, potrebbe esserci un rafforzamento dei poteri dell'autority dei trasporti, mentre si discute ancora sul ruolo dell'autorità per l'energia. Confermata infine la scelta dei conti correnti bancari gratis per chi percepisce fino a 1.500 euro di pensione, una misura che però ha provocato un certo malcontento da parte delle banche. Per ora è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ora parliamo dell'IMU. L'IMU ci obbliga alla chiusura. L'IMU, sapete, la nuova tassa sugli immobili. Così ha detto Don Alberto Zanini, segretario nazionale dei Salesiani Scuola. Sentiamolo allora al microfono di Katia Caramelli. A me sembra che ci sia una grande confusione di base, che siccome nelle scuole cattoliche bisogna pagare una retta, le scuole cattoliche siano per i ricchi. In realtà le scuole cattoliche sono un risparmio per lo Stato di 5-6 miliardi di euro. Nel momento in cui ci mettessero la tassa dell'ICI, dell'IMU sugli immobili, noi non saremmo più in grado, con le rette che abbiamo, che sono basse, di pagare le tasse, chiuderemmo e lo Stato si troverebbe, invece che risparmiare e di avere delle tasse, ad avere 5-6 miliardi da spendere per gli studenti che si rovesciano sulla versione statale della scuola. Sembrerebbe però che se non c'è lucro da parte della scuola, in questo caso la scuola ha diritto all'esenzione ICI. Io spero di sì, non ero così sicuro prima. Andrebbe bene. Ma certo, allora sarebbe il caso di cominciare a parlare di parità economica, visto che in Europa tutte le scuole paritarie sono riconosciute come un servizio pubblico dallo Stato e solo noi in Italia vessiamo due volte le famiglie che vogliono scegliere la scuola cattolica. Siamo paritari solo nei doveri, non nei diritti. Io ho dovuto spendere nella mia scuola 1.200.000 euro per la sicurezza. Chi me li paga? La provincia? No. Nello Stato paga la provincia, da me no. Con le rette non riesco a pagare queste cose. Abbiamo dovuto vendere le case per pagare i debiti. E ora la riforma del mercato del lavoro, ha parlato il ministro Elsa Fornero. La riforma del mercato del lavoro servirà anche per far crescere gli stipendi degli italiani, ma perché ciò avvenga è necessario scardinare quei meccanismi che oggi, come testimoniano i dati di Eurostat, li portano ad essere fra i più bassi d'Europa. Ne è convinta Elsa Fornero. Secondo il ministro del lavoro, la vera chiave per sbloccare la situazione è l'aumento della produttività, ma serve anche una flessibilità positiva. Chi accetta lavori più flessibili dovrà essere pagato di più e non di meno, come avviene oggi, sostiene il ministro, che sui nuovi ammortizzatori sociali spiega invece che non potranno entrare in vigore fino a quando il paese resterà in recessione. Su salari e ammortizzatori sociali i sindacati continuano intanto ad incalzare il governo. In vista del nuovo incontro di giovedì, Bonanni della CISL sfida l'esecutivo a dare meno enfasi all'articolo 18 e a impegnarsi di più per ridurre le tasse sui salari. Sulla stessa linea anche Angeletti della UIL, che chiede poi risposte sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nuovo rialzo per benzina e diesel spinti dal caro petrolio. Durante il fine settimana Shell ha raggiunto 1,825 con un rialzo dello 0,5% centesimi, mentre il diesel, con un rialzo dello 0,5%, mentre il diesel ha segnato un picco a 1,765 con un rincaro di 0,6 centesimi, quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana. E ora il paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Tutti a Madeira. Non è la reclama di un'agenzia di viaggio, ma quello che fanno alcune aziende. L'isola, un tempo paradiso solo per turisti, oggi è anche un importante centro economico e finanziario, nonché un'oasi fiscale. Costituita con decreto nel 1982, la zona di libero scambio ha attratto un considerevole numero di aziende. Praticamente non si pagano le tasse e solo recentemente sono state introdotte aliquote dell'1-2-3%, mentre l'IVA è al 13%, la più bassa d'Europa. Un regime fiscale di favore che incredibilmente è autorizzato dalla Commissione europea. Così alcune case farmaceutiche hanno deciso, ad esempio, di registrare i loro brevetti lì, come Sigma Tau, la quale è stata oggetto nel 2010 di un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, nel quale viene contestata all'azienda una presunta evasione fiscale da 11 milioni di euro attraverso una procedura chiamata transfer pricing, cioè il trasferimento di valore da una società del gruppo ad un'altra con sede all'estero, nel caso la portoghese De Fiante, che si fa carico della parte fiscale al posto della prima. Val di Susa blitz per ampliamento cantiere, scarica elettrica grave, leader Notav. Tesoro asta bot per 12,25 miliardi, si abbassano i tassi. Il ministro Fornero senza accordo con le parti sociali, il governo ha il dovere di andare avanti. Oscar trionfa The Artist, statuetta per Ferretti, lo schiavo. In apertura di questa seconda parte del nostro GR, gli Oscar del cinema. È The Artist, il trionfatore degli Oscar 2012, quello che ha vinto le statuette più pesanti. Miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Jean Dujardin, colonna sonora e costumi. Hugo di Martin Scorsese si deve accontentare di riconoscimenti più tecnici, tra cui però la scenografia. E questo è l'Oscar italiano per Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. This is for Martin and for Italy. Unico tocco d'Italia, perché Enrico Casarosa invece non ce l'ha fatta. And the Oscar goes to Meryl Streep, the Iron Lady. Ce l'ha fatta invece Meryl Streep, miglior attrice, ormai è nella storia, 3 statuette, a solo una dal record di Katharine Hepburn. Ce l'ha fatta Christopher Plummer, miglior non protagonista, il premiato più anziano, 82 anni. Ce l'hanno fatta Octavia Spencer, miglior attrice non protagonista, Woody Allen, miglior sceneggiatura originale, Oscar che non ha ritirato, Asghar Farhadi che con il suo A Separation conquista il primo Oscar iraniano. At the time when talk of war, intimidation and in momenti di conflitto, intimidazione, aggressione, ha detto con orgoglio, finalmente il nome del nostro paese è pronunciato per la nostra gloriosa cultura, una cultura ricca e antica, nascosta dalla pesante polvere della politica. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla premiazione del film iraniano sentiamo allora il commento di Alberto Negri. Mi interessa girare film che rispettino l'intelligenza dello spettatore, aveva dichiarato a Roma nell'ottobre scorso Asghar Farhadi, regista iraniano del premio Oscar per il miglior film straniero, Una separazione. La sua pellicola è un film bello e coraggioso dove le donne sono protagoniste al pari degli uomini delle decisioni. Un messaggio esplicito alla Repubblica Islamica, ma anche a un mondo, non solo musulmano, dove la parità reale dei diritti tra i generi è ancora tutta da conquistare. Questo Oscar è anche un incoraggiamento da fuori ai registi iraniani in carcere o agli arresti domiciliari, come Jafar Panahi, condannato a 6 anni, al quale è stato vietato per 20 anni di lavorare e uscire dal paese. Siamo alla vigilia delle elezioni politiche in Iran, in un momento in cui Teheran è al centro delle tensioni internazionali per il suo programma nucleare. Dall'Iran non arrivano soltanto minacce, ma anche espressioni di una cultura che sa diventare universale e apprezzata ovunque. Questo premio, ha dichiarato Farhadi, è per tutti quelli che disprezzano le ostilità. In un momento critico l'Iran è citato per ricordare una cultura nascosta sotto la polvere della politica. E ora restiamo agli esteri con una notizia appena battuta dalle agenzie. Il ministro degli esteri francese Juppé ha riferito che i 27 ministri esteri dell'Unione Europea hanno concordato di concedere alla Serbia lo status di paese candidato all'entrata nell'Unione Europea. Russia ha sventato un attentato ceceno a Putin, una bomba sarebbe esplosa nel suo corteo. Avevano già nascosto dell'esplosivo vicino al Kutuzovsky Prospekt, la via di Mosca dove lavorano molti giornali stranieri. Putin l'ha percorso ogni giorno con il suo corteo di auto, lo avrebbero fatto saltare subito dopo le elezioni di domenica prossima. Queste almeno sono le informazioni diffuse dalla TV russa, confermate dal portavoce del primo ministro avviato a farsi rieleggere il 4 marzo, malgrado una crescente ondata di proteste. L'ombra del terrorismo ceceno, che già aveva accompagnato l'ascesa al potere di Putin nel 99, oggi potrebbe servire a rilanciarne la popolarità, magari a screditare i russi che scendono in strada chiedendo un cambiamento, a costo della stabilità della Russia. È ceceno uno dei due presunti terroristi arrestati in Ucraina, ha rivelato di aver avuto dall'emiro del Caucaso Doc Umarov l'ordine di preparare gli attentati a Mosca. Un'inchiesta tra servizi segreti russi e ucraini, partita in gennaio, che viene però rivelata solo ora, chissà se davvero per combinazione, a pochi giorni dal voto. Antonella Scotta, Radio 24 sulle 24 ore, Mosca. Continua a far discutere a Milano il caso di Maurizio Azzolini, condannato per coinvolgimento nell'omicidio del vice brigadiere Antonio Custra nel 1977 e ora capo di gabinetto del vice sindaco Maria Grazia Guida. Azzolini è il protagonista di una delle fotografie simbolo delle violenze di piazza degli anni 70, il ragazzo con la pistola in pugno in via De Amicis. Il colpo esploso dalla sua pistola non colpì nessuno, ma un altro uccise il vice brigadiere. Ho pagato il mio debito, dice Azzolini, incarico sbagliato, commenta Anna Sito, la vedova Custra. Incarichi di vertice nelle amministrazioni pubbliche sono inaccettabili, dice il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del terrorismo, Dante Notari Stefano. Lo ha intervistato per noi Maria Luisa Pezzali. La riteniamo un altro schiaffo dato comunque alle vittime del terrorismo. Noi siamo perfettamente consci che chi ha pagato il suo debito con la giustizia ha diritto di reinserirsi, però come il Presidente della Repubblica ha avuto occasione di dire, devono fare le cose con molta discrezione, perché responsabilità morali ne hanno comunque sempre. C'è chi dice che chi ha avuto a che fare con il terrorismo non dovrebbe lavorare per le amministrazioni pubbliche. Il lavorare per l'amministrazione pubblica non è che sia poi un grosso problema. Il problema è quando nell'ambito delle istituzioni pubbliche questi signori assumono posizioni di rilievo. Queste cose, secondo me, sono quelle inaccettabili. Quindi no a posizioni di vertice? Certo. Da ieri è in carcere Enrico Nicoletti, 75 anni, l'ex cassiere della banda della Magliana. Era già ai domiciliari con l'accusa di usura. Ora alcuni dei reati contestati gli sono diventati definitivi. Non voglio morire in carcere, ha detto l'uomo, che si è sentito male al momento dell'arresto, come ha raccontato il suo avvocato Massimo Biffa a Raffaella Calandra. Giovedì scorso la Corte di Cassazione annulla una sentenza di numerosi reati addebitati al Nicoletti. In due residuali casi, un'associazione per delinquere e un'usura, la sentenza era irrevocabile. Invece di attendere giudizio di rinvio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha emesso ordine di carcerazione. In questo momento lui è in carcere, giusto? Mi dicono che è al centro clinico di Rebibbia. Nel momento in cui i carabinieri sono andati a prelevarlo, mentre era in detenzione domiciliare per motivi di salute, lui si è sentito male ed è stato portato all'ospedale di Tor Vergata. Poi c'è una certificazione medica in cui l'ospedale di Tor Vergata dice che la condizione di Enrico Nicoletti è compatibile con quella di poter stare presso il centro clinico del carcere. Battute finali al processo di Lea Garofalo, uccisa dopo aver collaborato con la giustizia. Lea Garofalo, la donna che venne sequestrata e uccisa a Milano e poi sciolta nell'acido nel 2009, non è una vittima dell''ndrangheta. Per il PM Marcello Tatangelo si è trattato di un delitto comune, la cui sola aggravante per il momento è quella della premeditazione. L'avvocato Roberto D'Ippolito, che assiste la sorella della vittima, Marisa Garofalo, e la madre, Santina Miletta, costituitesi parte civile assieme alla giovane figlia di Lea, Denise, rappresentata presentata da un altro legale, in una memoria inviata al PM ha scritto che non c'è dubbio alcuno in ordine al fatto che tutti i reati addebitati agli odierni imputati, Carlo Cosco, convivente della donna, i suoi due fratelli ed altre tre persone, siano stati commessi con modalità d'azione di stampo mafioso. Gli imputati hanno voluto punire Lea Garofalo per la sua collaborazione con la giustizia iniziata nel 2002. Protestano ora i familiari della vittima che temono che l'esecuzione della Garofalo si limiti ad essere considerato soltanto un delitto passionale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono rimasto deluso da Buffon, capitano della mia nazionale. Al presidente dell'AIA Marcello Nicchi non sono andate giù le parole del portiere della Juve sul gol annullato al Milan. In diretta Carlo Gente, buongiorno Carlo. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Quelle sono le parole di Nicchi, cioè il presidente degli arbitri, ma ce ne sono molte molte altre in questo lunedì bollente, a cominciare da quelle ripetute da Buffon a Genova all'arrivo alla raduno della nazionale. Buffon non arretra di un millimetro, ridirei esattamente tutto quello che ho detto sabato sera, dice tra le altre cose: sono contento di come sono, ancora più orgoglioso di essere fatto in questa maniera, sono molto più leale di tanti altri retorici che si accaniscono dietro determinate frasi. Queste le parole di Buffon. Ma ce ne sono altre importanti sul fronte opposto, cioè quello del Milan. C'è Thiago Silva, pure partito per la spedizione con la sua nazionale, che ha difeso Buffon. Le parole di Thiago Silva, secondo me è giusto, anch'io avrei fatto lo stesso, il calcio è la mia vita, il mio lavoro, avrei fatto come lui, non avrei parlato. Però in una partita così importante l'arbitro non può sbagliare. Credo siano argomenti di cui discuteremo a lungo tra poco alle 14 in A Tempo di Sport. A più tardi. Grazie a Carlo Genta e a tra poco con A Tempo di Sport. Una notizia appena battuta dalle agenzie sul calcio: panchina d'oro a Francesco Guidolina, allenatore dell'Udinese. Ed è tutto per questo GR, che è stato curato da Daniele Biacchesi, Paolo Corleoni in regia, Valentina Furlanetto al microfono. Il prossimo appuntamento appunto alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.